123. Salsa alla maître d'hôtel. Sentite che nome ampolloso per una briccica da nulla, ma pure i francesi si sono arrogati il diritto, in questo e in altre cose, di dettar legge. L'uso ha prevalso ed è giocoforza a subirlo. Anche questa è una salsa che serve per la bistecca. Tritate un pizzico di prezzemolo. E per levargli la credine, come suggerisce qualcuno, mettetelo entro la punta di un tovagliuolo e spremetelo leggermente nell'acqua fresca. Poi formatene un impasto con burro, sale, pepe, agro di limone, mettetelo sopra il fuoco in una teglia o in un piatto e senza farlo bollire, intingetevi la bistecca quando la levate dalla gratella oppure delle cotolette fritte.